Questo ultimo risvolto mi ha abbastanza stupito perché ha sfondato un altro livello, diciamo, in qualche maniera. Non era detto che ci arrivasse, visto il clima politico che c'è sia a destra che a sinistra. Quindi a Milano, noi che lottiamo da molto tempo, ovviamente siamo stati contenti. Non tanto per il fatto in sé, chiaramente, dei reati puntuali uno per uno che saranno eventualmente accertati, quanto perché quello che emerge dalle carte è una conferma, ma molto più dettagliata, molto più intensa di come ci potessimo anche noi immaginare, di quello che pensiamo, cioè che questo tipo di governo della città, formato, diciamo, dalla razionalità neoliberale, cioè dall'ideologia del privato, dall'ideologia dell'attrattività di attrarre gli investimenti, porta inesorabilmente, a furia di deregolamentare, di sostenere che ogni regola ostacola il benessere di tutti, che è una posizione molto ideologica, porta poi mano a mano a sfalciare prima legalmente e poi, secondo me, in maniera inevitabile anche illegalmente, qualunque regola che protegge l'interesse pubblico. Quindi in qualche maniera diventa quasi irrilevante cosa è legale, adesso sto dicendo un po' un'eresia, però diventa quasi irrilevante cosa è legale e cosa è illegale, perché c'è una pressione, quello che si vede è che c'è una pressione fortissima per cambiare prima di tutto le leggi, per rendere legale qualsiasi cosa. Poi quando gli prende la mano, a un certo punto non ce la fanno più. Però il presupposto ideologico che le regole sono una forma di controllo reazionario della libertà sociale, che invece è ovviamente solo a favore della libertà imprenditoriale, ecco, quella cosa lì in qualche maniera porta a questo regime iniquo, ma anche alla fine caotico, entropico, potremmo dire. Ecco, al di là di quelle che poi saranno, come dire, i progetti urbanistici specifici che finiscono dentro questa inchiesta, insomma, a Milano da tempo, ma non solo, anche in altre città, comunque a Milano c'è una grande discussione attorno ad alcuni progetti. Quali sono gli ultimi, diciamo, quelli più famosi che hanno fatto discutere in città? Sicuramente c'è lo stadio, questo stadio di San Siro che il sindaco vuole assolutamente vendere alle società, che non sono le squadre di calcio naturalmente, ma sono dei fondi anche di difficile riconoscimento, cioè noi non sappiamo neanche benissimo veramente chi c'è e chi non c'è nella proprietà. Quindi questi fondi, che non hanno nessuna relazione né col calcio né tantomeno con la città e i suoi cittadini, vogliono abbattere questo stadio, che funziona benissimo e che è anche uno dei migliori dal punto di vista dei tifosi, per farne uno più piccolo, più di lusso, e trasformare il quartiere chiaramente in senso commerciale, tra l'altro creando un impatto ambientale spaventoso, inutile e spaventoso. Ora, questa vendita è stata osteggiata moltissimo dagli abitanti e soprattutto in particolare da un gruppo di attivisti bravissimi che poi hanno fatto rete con molti altri movimenti e che hanno anche avuto parecchie vittorie. Però l'accanimento con cui Sala persegue questo progetto è incredibile, una battaglia che si protrae da anni contro, ripeto, i cittadini. Dopodiché c'è la trasformazione di Piazzale Loreto, con tutto il suo portato storico, in un centro commerciale, che è una cosa incredibile. Per riqualificare, tra virgolette, una piazza pubblica, praticamente la si dà a un privato per farci un centro commerciale sopra, cioè una cosa che non sta nel cielo né in terra, non si è mai visto in nessun'altra città europea, in Francia, eccetera. E tra l'altro in seguito alle richieste di un concorso pubblico, quindi è stata una richiesta pensata, ecco. E questo anche è un progetto, spero si stia avviando verso il naufragio. E poi soprattutto ci sono le grandi superfici degli scali, dove peraltro sono implicati parecchi degli indagati, anche se non sono gli scali, non sono il centro delle indagini. E tutto questo, secondo me, dovrebbe essere in questo momento fermato, cioè la cosa più urgente, nel senso, bisogna ridiscutere, perché anche se dovesse da un giorno all'altro cambiare la classe dirigente, il sindaco, eccetera eccetera, finché rimane questo il modello di sviluppo urbano, è evidente che questi ultimi pezzi di città pubblica continuerebbero a essere amministrati in questo e destinati allo stesso destino. Ecco, quindi io penso che la cosa più urgente da chiedere, come peraltro è già successo tante volte, è fermarsi, ripensare una moratoria per mettere di nuovo i cittadini al centro delle decisioni e non lasciarli ai margini, come è stato scientemente fatto non solo da Milano ma ormai da i sindaci di molte città d'Italia, anche del centro-sinistra, cioè quindi come Napoli, come Bologna, come Torino, come Roma, che peraltro si scambiano esperti alla velocità del fulmine. Adesso c'è Boeri che a Roma è stato messo a capo di un progetto per le periferie, ci sono le fondazioni bancarie, tutta una serie di esperti della partecipazione che viaggiano tra le varie città e si scambiano progetti, portano pratiche, però c'è da dire che appunto anche gli attivisti si scambiano parecchie informazioni, quindi voi siete avvantaggiati rispetto a come siamo stati noi.